Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io chiedevo, siccome sono un tassista, chiedevo che nella sala lì al 91 di Monterosa, il Sole 24 Ore ci dia dei volantini o perlomeno delle vetrofanie che informi il cliente che quando viene su noi tassisti stiamo ascoltando la zanzara. Lo sai la cosa che non sopporto, cioè la cosa che proprio mi sta sulle palle, quello che trovo insopportabile? Tu dirai tante cose, no? Però in realtà a me fanno impazzire, caro Parenzo, fanno impazzire le persone che dicono le cose e dopo due secondi, perché in realtà scrivendo delle cose su Facebook, scrivendole su Twitter, dicendole eccetera eccetera, le pensano sul serio, perché ti scappa, quando ti scappa è la cosa più naturale che c'è, che ti viene fuori. Ti viene fuori la verità di quello che pensi. Bestialità. Non lo so, non sempre bestialità, magari dei ragionamenti, dei ragionamenti estremi, ma sono le cose che davvero pensi. O comunque è importante che le pensi. Poi ti rendi conto di avere una sciocchezza e ti penti. Ecco, a me il le conseguenze penali. Sì, oppure... vabbè, ma lascia, beh, tu pensi sempre ai tribunali, mamma mia. No, dico, se uno scrive una persona, scrive una follia, bene, paga le conseguenze. No, ma sì, ma d'accordo, ma non dici. Dicevo quello adesso, lascia perdere le conseguenze. Ma io dico solo quello. Perché... Vabbè, ma che me ne frega a me dei tribunali? La cosa fondamentale. Ma tribunali, a me la cosa. Conseguenze morali. A me la cosa interessante è che queste persone dopo un secondo si pentono. Se ti credo. Si pentono e in realtà non hanno le palle per mantenere quello che dicono. Vabbè, ma ho capito, se uno si accorge. Non hanno le palle. Vabbè, facciamo degli esempi concreti. Guarda, se no la gente non capisce, sembra che siamo pazzi mentre c'è questo casino della Grecia a parlare di questa roba qua. Allora, c'è un signore che si chiama Paolo Pantaleone. Che è Pantaleoni, sì, è un signore di Rifondazione Comunista. No, segretario di Rifondazione. Sì, vabbè, insomma, no, responsabile uno. Di Rifondazione Comunista a Rimini, a Riccione, da quelle parti lì. A Rimini. Cioè, una città importante, con grande tradizione anche di sinistra, eccetera. Il quale scrive su Facebook: non è ora che impicchino i Marò, cioè vorrebbe. Impiccare i Marò, questa è la sostanza, cioè si augura l'impiccagione dei Marò. Ora ovviamente non se la augura, o forse sì, comunque a piacere che i Marò siano condannati perché hanno ammazzato due pescatori. Questa è la realtà di quello che viene fuori. Poi dice di aver fatto una puttanata, dice no, è una puttanata, ho detto una stronzata, ho esagerato, volevo provocare. Ma come? Lo pensi? Vai fino in fondo, no? Prima cosa, c'è un parroco in Sardegna, Arborea o Arborea, non so come minchia si pronuncia, no? Il quale dice bisogna lanciafiamme per i gay perché è scandalizzato dalla vista di due culi durante una, no, culi nel senso di culi sul serio, non culattoni, due culi durante una gay parade, non so dove, ha pubblicato una foto, ci vorrebbe un lanciafiamme. Poi dice no, mi sono pentito. Ma che pentito di che? Hai detto che ci vuole lanciafiamme. De che te devi pentire? Lo pensi? Vorresti che questi fossero sterminati? Vai fino in fondo, di la tua. No, mi pento, ho sbagliato, scusatemi. Un altro ce n'ho, un altro. È un tizio, un assessore qua vicino a Milano, a Cassano d'Adda, no? Un assessore lombardo. Sai il caso ancora della ragazza stuprata, 15enne, certo, a Roma, no? Questo dice certe donne provocano. Beh. Poi dice no, mi sono sbagliato, non lo pensavo. Ma vai a fare in culo, va. Che idiota. Ma è una cosa incredibile. Cioè, certe donne provocano e rischiano da come si vestono. Hai detto la puttanata, lo pensi? Pensi che lo stupro sia il frutto delle minigonne, del fatto che le donne vanno in giro con le tette di fuori? Benissimo, vai fino in, sei un coglione, ma vai fino in fondo! Con no, mi sono pentito perché poi ti attaccano politicamente, no? Non resisti a questa cosa qua, non hai le palle per resistere. Vabbè, passiamo alle banalità. Il ministro Boschi, adesso io francamente vi invito a cercare una dichiarazione, ma dico una, poi le persone che conosco, le poche persone che conosco, ma nella... quella sul figlio dici, maschio, sì sì, le poche persone che conosco nella politica mi dicono no, ma è brava, è una che ha saputo fare la legge elettorale, è una che ha la riforma istituzionale, scusa, è una che ha avuto, no, ma dico, ma voi vi ricordate una dichiarazione del ministro Boschi che vi abbia colpito da due anni a questa parte? Una, ditemene una, vi prego, chiamate, ditemi una dichiarazione, una frase, una cosa che vi ha colpito. No, spesso colpiscono le frasi che riguardano la vita privata. Allora, questa volta dice che vorrebbe un figlio maschio, sentite, per insegnare al figlio maschio la parità. La parità! Vado ai matti, la parità! E io spero un giorno di avere anche un figlio, magari un figlio maschio, a cui proprio insegnare come deve rispettare le sue compagne e poi le donne che incontrerà nella sua vita, così come hanno fatto con me, i miei fratelli, i miei genitori, sapendo che probabilmente la prima parità vera di diritti si impara a casa, quando la mamma fa sparecchiare la tavola sia al figlio maschio che alla figlia femmina, perché è probabilmente da lì che parte il lungo percorso per la parità tra uomini e donne. No, ma io questo è un ministro, questo è un ministro, dai, Davide, ma non si può sopportare una cosa di questo tipo, dai, su, io diventa, vado ai matti con questa cosa qua, dai. Adesso voglio dire, io per esempio non ho mai sparecchiato in vita mia quando ero ragazzino, non ho mai sparecchiato in vita tua, e però credo di avere, come dire, un altissimo, per me le donne, uomini, pari, insomma, non ho mai pensato di essere superiore ad una donna, no, mai lo penso, mai lo penserò e mai l'ho pensato prima. No, lei dice questa distinzione di ruoli, su, no? Ragazzi, dai, sì, c'era sempre qualcuno che sparecchiava per me, sì, è vero, c'era sempre qualcuno che sparecchiava per me, no, io ho sempre sparecchiato, no, per me c'erano servitù, guarda, sempre servitù ho avuto io, sempre servitù, ma non me ne vergogno, è così, poi dopo io ho imparato a far da solo, ma ho sempre avuto qualcuno, ma non c'entra niente con questa roba. Adesso lasciamo perdere quello che ho fatto io. Questa signora Boschi dice che vuole avere un figlio maschio e chi se ne frega, e in più per insegnargli la parità tra uomo e donna, ma perché devo sentire questa cosa io da un ministro, perché? Oh, pare che dei Rom, due signori Rom, siano saliti su un treno, hanno sbagliato biglietto, poi hanno detto gli stranieri hanno più soldi degli italiani, il capotreno non è capace di lavorare, poi hanno detto io con i soldi mi compro quello che mi pare, faccio tutto quello. Un signor poliziotto napoletano, peraltro, molto simpatico, ha detto a un certo punto, si è incazzato, ha detto senti amico mio, tu con i soldi puoi comprare quello che ti pare, ma l'educazione non te la puoi comprare, si sente poco ma è significativo. Lei deve saper parlare, non deve offendere, perché il capotreno sa lavorare, è lei che è in torto, è lei che non sa vedere il biglietto. Non alza la voce. No, no, no, lei non mi dice di alzare la voce, perché sto ascoltando le stupidaggini che sta dicendo lei. Con i miei soldi vado dove voglio. Allora, con i suoi soldi certamente non compra l'educazione, perché l'educazione purtroppo con i soldi non se la compra. Sia rispettoso con la persona, ha capito? A parte che un assessore a Roma vuole fare i corsi di guida, ho letto, per i Rom, Parenzo. Sì, ho visto anch'io. Per i nomadi, corsi di guida. Cioè, Marino, con tutti i problemi che ha, un assessore propone di regalare quattrini alle comunità Rom per fare dei corsi di guida gratuiti. Ma io dico, ma la gente è impazzita oppure sono cose... Corsi di guida gratuiti, perché ai Rom sì e a quelli italiani che non sanno... Italiani, non Rom che sanno guidare, che non sanno guidare, no. No, io ad esempio ho fatto la patente come si sa ormai. Hai pagato. Ho pagato perché i Rom non ti senti discriminato non ti senti discriminato in questa cosa? No. Beh sì, un po', effettivamente. Ah, sì, si è rinsavito Matteo Salvini, no, beh, buonasera, ovvio. Ciao, ho Matteo. Pagato tantissimo, pagato. Buonasera, a parte il fatto che fra un Rom e Parenzo la guida non saprei chi scegliere, però vabbè. No, però pare che guidi bene, pare che guidi. Lo sai anche tu, ho portato anche te, quindi sicuro. Quando ecco, sia di sorpasso a 70 all'ora in autostrada, me lo vedo. Ma i corsi di guida per i Rom, falli pure tu, dai. Cioè, fateli pure voi dalla Lega. Ho detto, ma molto educatamente, quando arriveremo al governo, perché arriveremo al governo, non è la priorità né dell'Italia. Addirittura, sei così sicuro. Ma cancelliamo tutti quelli che sono finanziamenti, campi, corsi, aiuti, sostegni tutto. Per i Rom. Zero. Cioè, cancellare zero. Tutto l'aiuto tutto. Che c'è tu, qualsiasi euro di statale o locale per i Rom. Assolutamente, non vedono un centesimo di euro, vengono trattati come tutti gli altri normali cittadini del mondo. Sì, devo dire la verità, spesso questa cosa lo dice. decidono i comuni e le regioni e non i governi centrali. Dunque, per quanto è possibile, tu dici, per quanto è possibile farlo a livello... Ma ti pare che la regione Emilia-Romagna dà le possibilità di autocostruirsi abitazioni in micro aree per i Rom? Questo è discriminante. Perché se io, te o un ascoltatore, decidiamo di autocostruirci una casetta dove vogliamo, ce la abbattono dopo un quarto d'ora. Non capisco perché un Rom invece può autocostruire quel cavolo che vuole, zero. E se un comune gli dà il permesso, io, Stato, gli tolgo ogni lira di finanziamento. Parenzo, tu sei d'accordo su questo o pensi che invece i Rom debbano avere una via preferenziale in quanto Rom, in quanto comunità così che ha delle difficoltà di integrazione, caro Parenzo? No, voglio dire, ricordo all'amico Salvini, segretario della Lega Nord per la fu indipendenza della Padania, che spesso quando uno si costruisce la casetta abusiva poi ti fanno un condonino, e anche il suo governo ha fatto un sacco di condoni per quelli che si sono costruiti abusi edilizi pazzeschi, quindi adesso, per carità, su, avanti, dai. Vabbè, lui sta parlando per il futuro però, non per il passato. Io sto ricordando semplicemente, il futuro per il, sto ricordando semplicemente che quando gli italiani... È il classico esempio della sinistra che, siccome non sa giustificare quello che non stanno facendo ormai da 3 anni e mezzo, deve tornare al 1997. Ma non avete fatto condoni voi? Quando la Lega... abbiamo fatto degli errori, sì. Condoni, avete fatto edilizi? Condoni edilizi li avete fatti o no, condoni edilizi voi? Sì, certo, ma ho detto, abbiamo fatto degli errori, certo, più di uno. Ma perché sei, perché sei così sicuro di andare al governo? Hai detto prima, perché ci andremo sicuro. Cioè, tu sei proprio così sicuro? Ma non sono sicuro, io sono sicuro. Ma cosa ti giocheresti? Permetteranno agli italiani di votare, e ho una discreta convinzione del fatto che le proposte economiche, prima ancora che sui Rom, che stiamo facendo... saranno assolutamente convincenti per il 51% dei cittadini che voteranno. Cioè, tu pensi per esempio seriamente di poter fare un ballottaggio con Renzi, per esempio, se rimanesse questa legge elettorale, no? Assolutamente fuori discussione, ammesso e non concesso che ci sia ancora Renzi, perché mi sembra che tutti i segnali che gli stanno arrivando, le intercettazioni che gli hanno pubblicato. Ma tu parleresti così con, tu pensi, al di là della questione della pubblicabilità o no delle intercettazioni, su cui si può discutere a lungo, per te una barbarie pubblicare quelle intercettazioni o bisogna guardare al contenuto? Sì. No, io continuo a ritenere che in un paese civile vieni sbattuto sui giornali se commetti qualche reato. Se io e te, finita la trasmissione, ci telefoniamo, diciamo le peggio schifezze che non hanno nessun tipo di rilevanza penale, e io sono intercettato, lo troviamo sui giornali, e mi sembrerebbe quantomeno... Da questo punto di vista, anche se non ha detto nulla, Renzi avrebbe qualche ragione di protestare contro chi ha pubblicato... non ha detto nulla, insomma, tirare in ballo... Non ha detto nulla di commento, volevo dire. Non ha detto nulla di commento evidentemente perché ha la coscienza sporca, perché chi di intercettazioni ferisce, di intercettazioni ferisce, anche perché costano un occhio della testa. Io, chi ci sta ascoltando, insomma, bisogna guardare al contenuto, d'accordo, bisogna guardare al contenuto di queste intercettazioni, cioè quelle con Adinolfi, il generale della Guardia di Finanza, Nardella eccetera, oppure alla forma. Tu dici è una barbarie, no? Giusto? Sì, io vado contro il mio interesse, perché io sono all'opposizione, qualunque cosa vada contro Renzi io dovrei dire viva. Secondo me è profondamente scorretto utilizzare del denaro pubblico per intercettare discussioni che non hanno nessun tipo di... Ma secondo te, allora, benissimo, invece entrando nel contenuto, parlare col generale Adinolfi, generale della Guardia di Finanza, delle sorti del governo, definire Letta come l'ha definito, farsi dare dello stronzo perché Adinolfi sembra del Milan come te, mentre lui è della Fiorentina, è una cosa normale secondo te o no? Cioè tu ci parli... Parlare di Milan e Fiorentina è normalissimo, parlare di affari pubblici con chi dirige la Guardia di Finanza mi sembra molto meno normale. Cioè, secondo te il punto fondamentale, come secondo me, è quello dei rapporti Renzi-Adinolfi, cioè Adinolfi che parla, che è un generale della Guardia di Finanza, per chi non lo sapesse, che parla di governo, caduta del governo. Sì, ma la Guardia di Finanza teoricamente è quella che manda le ispezioni, è quella che potrebbe controllare eventualmente anche gli affari di casa Renzi. Appunto. Vi pare normale? Cioè, secondo te hanno coperto qualcosa? No, non sto dicendo questo, lo lascio giudicare agli ascoltatori. Io non ho mai parlato col comandante della Guardia di Finanza. Cioè, è sbagliato per un uomo importante come Renzi, che sindaco in procinto di diventare... Il Presidente del Consiglio deve parlare con tutti, per carità di Dio, non in certi termini, né di certe d'accordo cose. Però non in modo istituzionale, tu dici, certamente non parlare di futuro del governo, di sorti del governo, di Napolitano eccetera eccetera col generale della Guardia di Finanza. No, sentire il Presidente ricattabile, io ho sempre avuto una pessima impressione, una pessima idea, un pessimo giudizio di Napolitano, ma non perché so che il figlio ha fatto, ha detto, ha forcato di spatto, perché secondo me ha svenduto l'Italia. Quindi non sono uno di quelli che ha fatto gli auguri, buon compleanno. Ma è ricattabile, però... secondo me. Ma non ne ho la più pallida idea, cosa ne so io di che cosa ha fatto il figlio Napolitano. So che Napolitano ha fatto il male dell'Italia. Un attimo solo che c'è il traffico, poi andiamo sulla Grecia. 800 24 00 24. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Attento al GDT, sai? Allora, ragazzi, prima di chiedere qualcosa sulla Grecia a Salvini, anche se oggi ha detto un po' di tutto, sulla questione soprattutto di questo piano accettato alla fine da Tsipras, ha definito tutta questa vicenda una buffonata, giusto Salvini? Poi spiegheremo perché, ma c'è qualcosa da chiarire su una vicenda che apparentemente è minore, perché però nei giorni scorsi è stata sulla prima pagina di un giornale, per esempio Libero. Cioè, la vicenda Efebal, la vicenda su cui abbiamo un minimo di responsabilità anche noi. Allora, io non ho capito una cosa, ha offeso la Lega? Da che parte stai? Ma guarda, capisco che a luglio i giornali sotto l'ombrellone abbiano bisogno di scrivere qualcosa che distrae. Io non ho nessun problema con gli omosessuali, con i trans, con le lesbiche, uno può fare della sua vita quello che vuole. Io ho ringraziato questa trans perché ha sostenuto la nostra battaglia, e sono gli ultimi giorni per firmare la mia, la tua e quella di tanti italiani. Sì, sulla legalizzazione della prostituzione. Per regolamentare la prostituzione e toglierla dalle strade. Benissimo. E lì mi fermo. Ma poi, vi siete scambiati dei messaggi o no? Ci sono questi sms? Sì. Sì. Voglia che ci sono sms, ma assolutamente mai privati, mai di cose private. Ma figurati, io ti chiedo, cioè non ti piacciono i trans? No, non è il mio gusto sessuale, da quel punto di vista preferisco altro, però non entro nel merito di una polemica sul nulla. Mi spiace perché poi Febala ha strappato la tessera della... Sì, ma voglio dire, in Lega c'è tanta gente che sta entrando, quindi... Ma poteva utilizzare questo Solo delle Alpi, o è stata un'offesa? Perché tutto è partito da questo Solo delle Alpi utilizzato come... No, io non sapevo di quei manifesti. Poi il Sole delle Alpi è un marchio che usa la Lega, per cui bisogna chiedere l'autorizzazione per... Cioè, ha sbagliato, però anche polemizzare lì sul buon gusto, il cattivo gusto. Qual è il buon gusto e il cattivo gusto in Italia? Quindi io sono molto più concreto e quindi mi interessa arrivare all'obiettivo. Allora, dille qualcosa, resta con noi. Ma poi non puoi pubblicare i messaggi privati, anche se non dicono niente, o dire... Temo per la mia vita, sì, perché so cose incredibili. Sui leghisti. Dai, adesso va bene tutto. Stiamo parlando del referendum per cancellare la legge. Ormai siamo oltre quella roba là, però. Un messaggio di buonanotte, buonasera. Se sa qualcosa di complicato, me lo dica, anche perché io, come segretario della Lega, lo voglio sapere, perché sono io che eventualmente devo intervenire. Ma altrimenti le mezze minacce, le mezze cose, i ricatti isterici. Cioè, chi se ne frega? Come prima, insomma. Chi se ne frega? Penso che noi, con i problemi che stiamo vivendo, che rischiamo di lasciare ai nostri figli, questa polemica non sia esattamente in cima alle mie priorità. Quello lo sappiamo, però è successo. Ma la Merkel sta attuando una nuova specie di, molti dicono, di invasione, una nuova specie, la butto là forte, di nazismo? O no? Ma io, quando parlavo di Quarto Reich, a proposito dell'Unione Europea, ancora 3 anni fa, ero etichettato come un pazzo, un folle, uno sciacallo, un leghista. Adesso ormai ci sono anche molti opinionisti, molti commentatori, molti giornalisti che parlano di regime, di Quarto Reich. Cioè, la Merkel sta... I carri armati lo stanno facendo con la finanza, colpi di spread. Fa più male lo spread del colpo di cannone. Cioè, i tedeschi, quello che non sono riusciti a fare con i carri armati. Non sono loro, i tedeschi fanno il loro interesse. La Merkel fa l'interesse dei tedeschi. Io non rimprovero la Anche Merkel, Hitler lo faceva. Che gli italiani. Anche Hitler lo faceva. No, Hitler fortunatamente è sotto 2 metri di terra. Come paragone, anche Hitler faceva l'interesse dei tedeschi. Cioè... Ma il problema è che i tedeschi hanno al governo qualcuno che fa i loro interessi, i francesi hanno al governo qualcuno che fa i loro interessi, gli italiani hanno al governo qualcuno che fa gli interessi degli altri. Perché Renzi, Alfano e compagnia sono pagati dagli italiani, ma rispondono agli interessi degli altri. Ma Tsipras è un buffone? Ma Tsipras ha calato le braghe. Ha fatto il cancan, 10 giorni, referendum, il popolo greco, le banche chiuse, dico di no, e ha firmato un accordo che è peggio di quello quello che ha sottoposto al referendum. Ragazzi, ma voi sapete che il prodotto interno lordo della Grecia è di 179 miliardi di euro, che è meno meno della metà della Lombardia, e questi si sono impegnati a vendere 50 miliardi di euro di beni, cioè più di un quarto del prodotto interno lordo. Vuol dire che la Grecia è morta. Cioè, ma la Grecia, secondo te, è sotto scacco ormai, è finita? Ma no, è finita. C'è il cartello affittasi. Se si vuoi comprare un'isoletta, fatti avanti. Andiamo. Ma io, l'Italia, a me che me frega, ottimo. Io sono per il caos. Fai la Lega, fai la Lega lì. Fai la Lega in Grecia. No, ma la Lega sta in Italia e punta a governare l'Italia, perché il dramma è che Renzi in tutto questo è contato come il due di picche con Briscola Coppe, zero. Vabbè, quello... Io non ho capito, però tu hai questa ammirazione nei confronti di chi si fa, diciamo, gli affari propri, no? Come la Merkel. Tu dici la Merkel si fa i suoi interessi. Ma che dicono? Ma i francesi sono i cattivi perché non fanno entrare i clandestini a Ventimiglia. No, i francesi non sono cattivi, sono normali. Siamo noi che siamo cretini che li facciamo entrare ovunque, li mettiamo in albergo per un anno. Per cui per te l'unica soluzione per la Grecia sarebbe uscire dall'euro domani mattina? Sì, nell'interesse greco. Dovrebbero uscire. La Grecia è morta. Io voglio vedere Tsipras. Pare che sia morta pure uscendo dall'euro, però. O no? No, perché una moneta più giusta, che vale di meno, ti permette di far ripartire la tua economia. Però fotte pure noi dopo. Fotte pure noi. Qualcuno. Capisci che neanche in Grecia. Ma noi, ragazzi, la Grecia sono meno abitanti della Lombardia. Tra l'altro. Quando arrivano a noi, perché i bocconi in Italia da mangiare ci sono, Eni. E nel film meccanica, lo dico agli ascoltatori, non a Parenzo che non capisce, quando sentirete parlare di privatizzazioni per coprire il debito, c'è la fregatura dietro l'angolo. Insomma, dipende, di privatizzazione, insomma, quella è l'unica cosa giusta che hanno fatto, invece, scusami, ma quella è l'unica cosa giusta in posta. Spendiamo pezzi di futuro basta italiano, che non sia privatizzazione come quella che avete fatto voi. Va bene, ragazzi, devo chiudere. Ciao Matteo, ciao, presto, ciao. Un abbraccio. Ciao. Cruciani, sono felicissimo di avere questa possibilità che mi è stata data, guardi. Io volevo proprio mandarla a fanculo, ma proprio con tutto il cuore. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. La Zanzara. Now on the day I was born, the nurses all gathered round and they gazed in wide wonder. Eccoci ragazzi, in che compagnia, non voi dico, ma le puttanate che avete elencato, l'elenco sconfinato e impudico di puttanate reali e verbali che ammorbano il nostro tempo, mamma mia. Alcune ricerche scoprono, caro Parenzo, popolo della radio, l'acqua calda, cioè le corna fanno bene alla salute. Beh, fanno bene al matrimonio. L'infedeltà può salvare un matrimonio, ma questo lo dicono ormai tutti, lo dice pure il barista sotto casa mia. Cioè il barista sotto casa mia, la prima cosa che dice è fatto: io ho tradito mia moglie, c'è un barista di un piccolo bar, no, sotto casa mia, ogni tanto vado a fare colazione lì. Cioè, e dice, io da quando tradisco mia moglie, non lo so, magari non lo dice a lei, da quando tradisco mia moglie il nostro rapporto va a meraviglia. Ma sai che questo fatto di essere cornuti è anche eccitante? Beh, assolutamente sì. E adesso ci sono sessuologi, studiosi che dicono: molte coppie dopo un tradimento migliorano, il disordine porta un nuovo ordine, si approfondisce la comunicazione, si arriva a livelli di onestà e apertura mai sperimentati prima. C'è di più, caro Parenzo, e ti invito a seguire questo tipo di consiglio, questo tipo di nuova Bibbia, diciamo. I partner che prima provavano indifferenza sessuale ritrovano una passione vorace per la paura di perdersi. Datemi un paio di corna e vi solleverò il mondo. I signori della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ti voglio segnalare questo, caro Parenzo. Ho visto anche questo. Non hai nessun commento sul tradimento, ma lasciamo perdere. Stavo dicendo che se a voi piace essere cornuti, io vi lascio tranquillamente questa autostrada, questa possibilità, non sarò certo io a criticare, anzi, siate cornuti, benissimo, e viva per voi. No, ma attribuisce la parola cornuto, che nemmeno un siciliano negli anni 50 o 60, con tutto rispetto per i siciliani. Attribuisco la parola cornuto quello che è il suo significato, quindi sono felice per ma voi. Sei ancora con queste parole? Ma sei ancora con queste parole cornuto? No, sono felice per voi. Cornuto. Io, diversi, ma per carità, non vi critico. Bravi e viva cornuti. Beh, bravi, ma avrai cornuti. Tradito in vita tua, no? Avrai tradito in vita tua. Ma certo, ma non è una cosa simpatica, però. Ma non è simpatico, ma fa parte. Appunto, trasformare questa cosa che non è simpatica in un momento. Ecco, no, è questo che dico, in un momento di condivisione, in un momento di grande condivisione. E no? Poi dopo dice: sbaglia, ma che sono quelli? I corpi sono qualcosa di. L'importante sono i sentimenti, non i corpi. È meglio evitare il matrimonio che evitare un amante. A proposito, ripeto, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che spero non prenda per le cose che dice e sostiene finanziamenti pubblici, ma sono sicuro di sì, ci saranno sicuramente un sacco di lasciti, un sacco di gente che lascia eredità, finanziamenti privati, per carità, è tutto legittimo, ognuno fa le leghe nazionali per quello che vuole, io farei una Lega Nazionale per altre cose, delle persone fanno invece la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che non ha bisogno della Lega Nazionale per essere difeso il cane, per fortuna, ma si difende bene da solo. In ogni caso, questi signori della Lega Nazionale per la Difesa del Cane scrivono che la zanzara odia gli animali, cioè io odierei gli animali, semplicemente perché ho detto che gli agnelli e gli animali che vengono mangiati non sono dei cadaveri di esseri, come dicono loro, senzienti, parola orribile, terribile, ma semplicemente cibo, una volta uccisi naturalmente. Sono quelli che sostengono, ormai si sa, che è nocivo per la salute dell'uomo mangiare carne, c'è grande sofferenza dietro la bistecca che riempie il mio piatto. Vabbè, ho capito, lo sappiamo, lo so già, siete noiosi. Cioè, queste sono persone che dicono che è una scelta etica quella di mangiare solamente, di non mangiare la carne, una scelta etica. Cioè avere riguardo per la vita di tutti gli esseri senzienti del nostro pianeta. Cioè chi non fa questa scelta, ed è questo che mi fa incazzare a me. È per questo che considero degli stronzi gli estremisti vegani, gli estremisti animalisti, gli estremisti vegetariani, quello che è. Cioè chi non fa questa scelta, secondo questi signori, non ha riguardo, cioè non ha rispetto per la vita di tutti gli esseri senzienti e del pianeta. Io sarei una persona, come molti di voi che mangiano carne, siamo assassini, irrispettosi della vita altrui e affamiamo e distruggiamo il pianeta. È questo che mi fa incazzare, amici della Lega Nazionale per fracazzo da Velletri. Grande battaglia sulla Grecia tra Giannino e Marco Furfaro. Marco Furfaro è una persona rampante, un giovane rampante, diciamo del partito di Niki Vendola, Tsipras, questa roba qui. Le regole, sì, benissimo, l'economia, però prima viene il buon senso, viene la politica, perché intreccia la vita, perché se ho una persona che tu gli hai tolto il sangue, perché di questo parliamo, perché non è come la racconta... Ma glielo hanno tolto i governi greci, non noi! Quelli che... Esattamente! Adesso lei mi dice che io sono sensibile al sangue! Manino, stia tranquillo! Ma glielo hanno tolto i governi greci, non gli italiani! E infatti... Non gli irlandesi, capisce? Giannino che dice... Il sangue ai greci non gliel'ha tolto l'Europa, la finanza, ma i governi greci. Mi può dire qual è la sua fonte per il fatto che Tsipras aver detto no e se ne sia andato? Perché io invece so che è stato cacciato da quel tavolo. Io, guardi, io sono... grazie, a posto. Tutte resoconti, grazie, che sono... grazie. Allora, però, grazie Giannino. Grazie che? Ma scusi, tutti i giornali europei hanno raccontato come è andata. Giannino, però per favore, a me non piace. Allora, Giannino ha parlato per lungo tempo, non mi piace questa aggressività. Oh, la signorina Bortone, non piace l'aggressività di Giannino, ce ne faremo una ragione. 800 24 00 24, Andrea, provincia di Bologna, dai. Pronto? Sì. Ho spento la radio. Io volevo intervenire, volevo dire che insomma io l'ascolto spesso, no? Sì. E la sento accalorarsi solo straccia le vesti solo quando parla la Boldrini, la ministra lì su delle stupidaggini. Lei purtroppo, quando ascolta le mostruosità di Borghezio, sì, di Salvini, mi metto a ridere Garbi, spesso mi metto compagnia, a... lei al massimo ride. Sì, beh sì, certo, ha ragione lei, sì, sì, sì. Ho ragione, e allora? E allora niente, fanno e allora, le banalità fanno più male delle stronzate. Ma questa è mi la danno tua più fastidio. Ma certo, certo, certo che è la mia opinione, no? E se no quella di chi? Sì, scusi, sto parlando io, non è che sta parlando qualcun altro. Certo che è la mia opinione, non c'è dubbio. Mi fanno molto più incazzare. Allora, la mia. E la dica pure, dilla pure, dilla. Lei tra le tante cose per cui mi fa orrore. Bene, ottimo. C'è anche questa, e per esempio, un'altra cosa, visto che stiamo a parlare di ti faccio orrore, Andrea, ti faccio orrore, godo. Se lei avesse sparecchiato qualche piatto, forse sarebbe anche un po' più educato, perché un altro suo grosso problema è che è un gran maleducato. Ma scusi, sto parlando tranquillamente con te senza problemi, ti sto lasciando parlare. Sì. Dove sarebbe in questo caso la maleducazione? Spiegamela. Lei solitamente è molto maleducato. Molto maleducato. È molto volgare e ignorante. Hai detto la tua? Hai detto la tua sequela di puttanate? No, guarda che le puttanate le dici soprattutto tu. Io dico qualche puttanata, probabilmente nella mia vita. Io ne dico tantissime, guarda. Il problema è che tu sei un personaggio pubblico e quindi le puttanate che dici tu, e sono molte più di quelle che dice una persona normale. Sì, ottimo. Sono molto più fanno molto più casino. Sì. E allora? Ecco. Dunque? E allora niente. Allora vai a farti fottere. Ah, bene, ti ho tirato fuori questa cosa finalmente. Era il mio obiettivo. Comunque sai guarda, da quanto tempo però volevo. tornando. Ma sai, quante volte me lo son detto, va bene. Va bene, però la cosa fondamentale che ti volevo dire, caro Andrea, mi piace quando sei così feroce, quando sei così aggressivo, godo. Di pure. La cosa che mi fa piacere è questa qua che ti vorrei raccontare, cioè la banalità di alcune cose. Ecco, quando uno dice una mostruosità, io sorrido. Rido, anzi voglio, mi fa piacere scandagliare nella mostruosità. Alle mostruosità. No, ma io faccio così, tu mi puoi contestare, però questo è il mio atteggiamento. Perché no? Perché mi piace scandagliare nella mostruosità dell'uomo, c'è qualcosa di interessante nella mostruosità volendo. Ecco, la banalità invece mi fa incazzare, proprio perché la trovo vuota la banalità. Ma chi decide cos'è una banalità? Ma sei sempre secondo me, Parenzo, ecco, ha detto la cazzata del 19-27, sei muto e ha detto la banalità, ecco appunto, questa cosa, vedi perché mi incazzo, la banalità. La banalità, dicendo chi decide, ma certo che secondo chi, se no. E lui giustamente fammi sentire, dice, Andrea, che è più interessante. Lui Andrea, giustamente ti fa notare una cosa. E tu vedi come ti ti sto accendendo. Ma non, come non mi sai accendere niente, hai detto una banalità colossale, perché le banalità mi fanno accendere. Allora le banalità colossali, guarda. Chi decide che cos'è? È chiaro che secondo me, non la banalità. Ecco appunto. Ma allora, no, ma questo presupposto un po' egotico. Ma che egotico? Sto parlando io, è la mia opinione. Allora, vedi come urli bene. Allora, senti, stai zitto, Andrea, fammi parlare con Andrea un attimo. Andrea, dimmi, dai. Allora, io se ti accontenti così di poco di stare in trasmissione e farmi incazzare, figurati un po', Andrea. Cioè, siete accontenti di così poco? Andrea, dimmi. Visto che io apprezzo il fatto che, insomma, a un certo punto sei diventato ragionevole. Ma su e che allora cosa? Allora anch'io voglio... No, nel senso che hai spiegato il tuo punto di vista, diciamo, insolitamente, con un tono... No, ma è per spiegarti, Andrea. E allora questo io lo apprezzo. E allora diciamo che torno anch'io su dei registri più civili. E allora, vedendo nel merito della questione, è chiaro che uno valuta le banalità quando le ritiene. Scusa, tali, ma un ministro delle riforme che dice che vuole un figlio maschio, uno potrebbe già dire chi se ne frega, perché insegnare al figlio maschio la parità tra i sessi, ma non è una banalità, una cazzata, una cosa ridicola o no? Basta, Luciani, solo questo. È legittimo. Ma sentire, sì, ma certo. O trovare che questa cosa sia una banalità. Io, tra l'altro. Ma basta, solo questo. Io volevo fare una questione di Stato. Fermo, che devo dare la pubblicità, però. Ci abbiamo le interruzioni, perché è giusto che sia così. E allora niente. Allora vai a farti fottere. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Solitamente è molto maleducato, è molto volgare e ignorante. il governatore della Sicilia Crocetta, in un'intervista uscita venerdì scorso sul Fatto Quotidiano, le seguenti cose. Lei è convintamente omosessuale? La risposta è questa, sentite. Io ho pulsioni polimorfe. Uno si chiede, ma che cazzo vuol dire pulsioni polimorfe? Cioè, sia per uomini che per donne o per altre cose. Vuol dire che anche etero? Domanda semplice dell'ottimo amico Caporale. Sì, ho avuto relazioni sentimentali con donne, sentimentali. A conferma di quella famosa intervista che facemmo a una presunta, anzi sicuramente fidanzata di Crocetta, te la ricordi, no? Una signora, una professoressa, non so di dove, di Catania. Che disse che era delicatissimo, che scriveva poesie, certo, come no. E disse pure che non c'era mai stato però sesso vero, se non sbaglio. No, era tutto, questo era il bello, che era tutto molto platonico, disse. Sì, mi ricordo, certo. Poi l'amico Crocetta dice, ho sbagliato a fare outing, coming out, non mi salva dal vostro gossip. Beh, amico mio, però il gossip l'hai un po' alimentato te negli anni, dicendo che no, che non fai più sesso e tutto. Comunque, questo è il mitico Crocetta che qualcuno ha soprannominato Frocetta. Frocetta. Qualcuno, io come sono contento di questa notizia, hai saputo che solo 16.000 italiani su 41 milioni hanno destinato il 2 per 1000 ai partiti, cioè i partiti hanno incassato 325.000 euro nelle dichiarazioni dei redditi. Il Vaticano, questo mi è dispiaciuto assai, sì, questo mi è dispiaciuto assai. Cioè 18,8 milioni di italiani hanno messo la crocetta sulle chiese, per destinare le chiese, che hanno incassato 1,2 miliardi, una roba incredibile. Cioè mi stupisce ancora che ci sono delle persone che donano i soldi alla chiesa. La banalità potrebbe essere che è l'indice della di quanto piace il Papa, invece. Cioè, può essere. Se poi quello è l'indice del termometro del rapporto tra i cittadini e la politica, perfetto, quindi ha ragione Grillo, no? Sì, se quello è il parametro. Viceversa, e viva il Papa allora. Può essere che il Papa abbia contribuito, ma bisogna vedere gli anni passati. Comunque, questo volevo dire perché ho scoperto che i partiti, per leggi vecchie che devono finire entro il 2017, devono incassare in questi giorni 46 milioni. Cioè sì, una tranche degli arretrati. Sì, degli arretrati. Sì, cioè sì, delle leggi vecchie che poi andranno ad esaurimento. Sì, sì. Ancora, ma perché non blocchiamo questa roba qua? Cioè bisognerebbe fare un'azione per bloccare questo trasferimento. Cioè in questi giorni vengono dati ai partiti, pensate un po', 46 milioni di euro. A me non me ne fotte nulla dei dipendenti, dei giornali, eccetera. Vanno bloccati questi soldi, non me ne frega niente della legge di Letta. Perché non cambiamo subito la legge per non far partire questa tranche di finanziamenti? 46 milioni di euro, 46 milioni che vanno ai partiti in questi giorni. Ho scoperto che sta per partire una tranche di una legge vecchia. Fermiamo tutto. Ormai non dice più niente, ha paura pure a dire che è contrario, che è ancora a favore del finanziamento pubblico, figuriamoci. No, io ho già detto che sono a favore del finanziamento pubblico. Ho capito, ma stiamo a fare la trasmissione, dillo, no? Pensavo volessi cambiare la Ma ho capito. Talmente a favore che poi arriveranno le solite telefonate di quelli che dicono, ecco, vergogna! Mai abbi coraggio di prendere le tue posizioni, no? Perché altrimenti parlo solo io. Non so. Di che mi nascondo, figuriamoci. Vabbè, e allora sta zitto. Grazie, Anna Maria da Roma, dai, 800 24 00 24. Dai, Anna Maria da Roma. Pronto? Sì, dimmi. Ah, salve. Allora, vorrei dire una banalità. Esiste una Costituzione in Italia, quindi sì, per le problematiche rom, musulmani, integralisti, migranti, basterebbe riuscire a fare rispettare le regole, che già è difficile farlo con gli italiani. Allora, sì, Roma, però in questo caso la Costituzione... Non mandi figli a scuola, te viene tolto il figlio, perché a Roma da quando hanno tolto il primo a quelli che chiedevano l'elemosina per strada, non vedi più un bambino che chiede l'elemosina per strada. Molto semplice. Quelli che li mandano a scuola un giorno per prendere 150 euro, non va bene, gli regali i quaderni, non gli dai 150 euro. Gli integralisti, tu sei contrario alla libertà di religione, sei indesiderato, si mette sull'aereo e si manda via. Cioè esistono delle cose, intanto devono imparare l'italiano in 3 mesi, sapere le leggi. Vabbè, adesso manco gli italiani, noi lo sappiamo l'italiano, figuriamo. Infatti è vero, però gli italiani purtroppo ce li dobbiamo tenere. Allora, quelli che vengono da fuori devono comunque rispettare queste cose, perché già ci abbiamo i nostri. Vabbè, però restiamo alla prima cosa, lei ha detto una cosa giusta, lei dice non mandano i figli a scuola, tolti i figli immediatamente, sì, ma questo è sì, giustissimo. Tolto il primo, quelli ce li mandano poi, no? Cioè, va bene, Anna Maria, grazie. Giuliano, Perugia, non vai. Non mi pare che capiti così spesso, diciamo. Giuliano, Perugia, vai. Sì, buonasera. Io volevo chiedere un consiglio a Parento, cercherò di essere il più breve possibile nei limiti della mia dialettica. La settimana scorsa, esattamente giovedì o venerdì, è successo un furto nei pressi di casa mia, vicino a casa mia. Io abito un po' in campagna, sì. E sono stati presi su segnalazione i ladri, praticamente con le mani nel sacco. Erano quattro e ne hanno presi solamente due, perché due sono fuggiti. Guarda, sì, caso erano due rom. Gli altri quelli due, fuggiti, so, o quelli presi? Non ho capito. Quelli presi. Erano sicuramente due rom, cioè, li hanno, sì, identificati. E praticamente li hanno. Ah, questo è l'ennesimo dei furti che vengono qua. E più delle volte li prendono, riescono a prenderli fortunatamente, o li prendono dopo quella refurtiva. Vabbè, allora... o quant'altro. È successo che praticamente li hanno processati per direttissima stamattina, sì, e sono stati obbligati a. Praticamente erano residenti a Firenze. Sono stati obbligati a, diciamo, all'obbligo di rimanere nel comune di residenza. Tutto qui, sono stati immediatamente scarcerati. Sai che gli frega quelli? No, esattamente. Allora io vorrei da Parenzo, visto che lui ha sempre la medicina per, diciamo, positiva per quanto riguarda la tutela di queste persone, vorrei che almeno da parte sua un'idea o su come dovrebbe cambiare la Costituzione, o quello che dovrebbero fare le guardie, perché ci sono delle persone, carabinieri... Quello che dovrebbero fare, sì, scusi, non ho capito. Prego, un attimo, finisco. Hanno rubato, sono stati catturati. No, fermo. Io dico solamente che ci sono dei carabinieri che sono adoperati, hanno corso dietro per i campi, hanno rischiato anche la vita. Perché e, non poi, e poi questi sono fuori dalla galera, dice lei. Fossero armati, questi hanno rischiato la vita. Vabbè, li hanno consegnati. Allora vorrei capire da parte sua, visto che ha sempre la ricetta per quanto riguarda la tutela di queste persone, se ha anche una ricetta per come cercare di proporre qualcosa. Vabbè, da proporre, come dovremmo comportarci noi cittadini con confronto di queste persone. Chi ruba, Se non tutelo chi ruba. Lei forse si sbaglia, o ha capito male, o ha frainteso le mie parole. Io sento sempre che lei difende questi tipi di personaggi, a prescindere. Io ho detto sempre che sono contro le generalizzazioni, come se fossero un gruppo etnico che ha del DNA il rubare. Io contro questo mi sono sempre scagliato. Dopodiché, se uno ruba, ripeto, sia esso rom, sia esso indiano, italiano, padano, di Bergamo, di Racalmuto, se ruba, ruba, e si applicano le leggi dello Stato. Vabbè, però vuoi mediatori culturali nei campi? Ma questo è un altro discorso, riguarda le case, la magari, di quel fenomeno. Ma magari canali privilegiati per ottenere le case, non eccetera, canali privilegiati, ma le stesse cose che riguardano per quegli italiani che hanno soldi, ma facciano le cose, facciano le graduatorie, non possono accedere al mutuo, ma cioè, fanno le graduatorie come tutti. Vabbè, hai sempre detto che comunque è un gruppo da tutelare, non che sono un gruppo, una minoranza da tutelare rispetto alle discriminazioni che vengono fatte, perché quando uno dice i rom sono ladri o sono fetti, no, ma lascia perdere la discriminazione. No, è l'unica cosa che ho sempre detto, è che se uno ruba, ruba. Va bene, Luca da Bergamo, vai, Luca. Ho mai difeso chi ruba, non mi pare. Luca da Bergamo. Sì, ciao Giuseppe. Hai detto sì, ma tanti furti li fanno tutti. Luca da Bergamo, dai. Ma certo, se volete posso anche sostenere che i rom non rubano, posso anche Luca, dirlo, ma non l'ho mai detto. Luca da Bergamo. Non troverete mai una cosa. Buonasera Giuseppe, buonasera. Dimmi. Ascolta Giuseppe, io volevo capire una cosa. Io ti ho sentito prima abbastanza fervorato sul discorso animalisti, Lega Nazionale per i Difesa dei Cani. Ma te con chi è che ce l'hai fondamentalmente? Quegli animalisti che difendono posizioni estreme, o col cani che si possono difendere da soli? Che mi sembra eccessivo, cazzo, nei confronti sia di una che dell'altra parte. Non ho capito bene, Luca. Io ho semplicemente detto che quelli che sostengono che con mangiando la carne c'è la fine del mondo, di che devo parlare? Cioè, quelli che sostengono che chi mangia la carne accelera la fine del mondo. La Lega Nazionale per la difesa dei diritti del cane non c'entra un cazzo. Ma non lo so, mi sembra che il tizio che ha scritto queste cose invece c'entri moltissimo, perché sostiene esattamente questo: che mangiare la carne è come uccidere animali, esseri senzienti, e accelerare la fine del mondo, perché il mondo perché si provocano dei danni pazzeschi. Questo sostengono questi. Sono puttanate, sono cose da estremisti, da fondamentalisti, punto e basta. Poi sul resto ognuno fa le scelte che vuole fare, a me che me ne frega. Se uno vuole mangiare le bacche tutta la vita, se uno vuole mangiare la terra, se uno vuole mangiare l'erba tutta la vita e solamente l'erba, si ammazzi, muoia, che me ne importa? Ognuno fa quello che vuole, c'è il diritto pure al suicidio, figuriamoci. Daniele Milano, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Intanto, dalla tua confessione che non hai mai sparecchiato, adesso si capiscono tante cose. Che si capisce? Non si capisce niente. Ho detto che, ma non ne faccio. Successivamente ho imparato a fare da solo, perché abito da solo da quando ho 18 anni. Per cui di che parliamo? Ho detto che quando ero ragazzino non ho mai sparecchiato, perché c'era qualcuno che sparecchiava per me. Che si capisce? Avanti, che cosa hai capito tu, genio? Che cosa hai capito? A proposito di vegani, no? No, ma cosa hai capito? Non ho capito cosa hai capito. ho capito che non hai mai fatto un cazzo nella tua vita. Ma chi te l'ha detto che non ho mai fatto un cazzo del lavoro da quando ho 20 anni? Ma chi te l'ha detto? Lavoro, faccio questo mestiere da quando ho 18 anni, certo non sto in fabbrica. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto che non ho mai fatto un cazzo? Ho avuto dei privilegi quando ero ragazzo, certamente non sono nato in mezzo alle baracche e non ho mai fatto, c'è sempre stato qualcuno che ha fatto delle cose per me. E allora? Che fai? Stai zitto? Allora alle 9 vengo lì via Monterosa, ti carico, ti faccio fare un giro nel Naviglio Pavese e ti faccio vedere cosa è la vita. Guarda che la vita la conosco molto bene io, non ti preoccupare, la conosco molto bene, perché non sono né un figlio di papà né una persona che ha avuto capito, che ha avuto tutto, mi sono costruito tutto da solo, non ti preoccupare Daniele, la so benissimo com'è la vita, certamente non è che ho vissuto, non ho vissuto nella povertà, su questo non c'è dubbio, ma so benissimo cos'è la vita, non mi devi fare un giro da nessuno, perché dove mi vuoi portare su Naviglio Pavese, a fare che? A scoprire le meraviglie del mondo. Ma che vuol dire le meraviglie del mondo, spiegami. Tu hai provato di tutto e adesso voglio vedere se hai provato di tutto. Ho provato di tutto, che vuol dire? Ho provato di tutto, non... ho detto che conosco un sacco di cose. Hai gustato tutti i piaceri della vita, forse. Oh, Dio, Daniele, amico mio. Dimmi, che cosa mi vuoi far provare, dimmi. No, volevo dire a Parenzo. Dimmi. Stamattina ero in zona Milano, zona Viale Famagosta, ospedale San Paolo, e mi sono un po' perso e ho girato una strada che non conoscevo e mi sono fermato e ho letto che ero in via Parenzo. Mamma mia. Beh sì, è una, il nome di una città, quindi non mi pare una cosa così clamorosa. Il problema è che mi è venuto da vomitare, è quello il problema grosso. questo posso capire che susciti questa reazione, certo, va bene, non posso fermarla, diciamo. E poi hai vomitato sul serio? Purtroppo sì, perché proprio solo l'associazione del nome col viso ho avuto proprio un conato. Non posso aiutarti in alcun modo, se non consigliandoti di prenderti una biochetasi, come si dice, una cosa intestinale, non so. Vabbè, ciao. Quanti di voi si sono incazzati, almeno quelli che l'hanno saputo, quando hanno sentito questo signore di Rifondazione Comunista, Paolo Pantaleoni, from Rimini, segretario locale di Rifondazione Comunista, scrivere, o se non l'avete letto, l'avete saputo, magari leggendo i social o informandovi, non so come, scrivere «Non è ora che impicchino i Marò?» punto interrogativo. Poi successivamente il signor Paolo Pantaleoni ha scritto: ho detto una colossale sciamenza, rimetto il mio incarico. Io proverei a fare una telefonatina, caro Parenzo, che dici? Telefoniamo per sapere come butta? Proviamo. Come butta stasera? Come butta stasera il signor Pantaleoni? Se ancora è avvelenato oppure si è davvero pentito di questa puttanata che ha scritto? Sì, pronto? Sì, Pantaleoni? Sì. Buonasera, sono Cruciani, salve. Ah. Come sta? Un po' provato. Un po' provato, ci credo. Ma scusi, se uno pensa a quelle cose, perché poi si deve pentire? Me lo può spiegare? Perché non le penso. Allora perché le ha scritte? Però guardi, voleva essere una provocazione. Ma scusi, d'accordo, una provocazione con la parola impiccare non è una provocazione, è uno sfogo, cioè lei quelle cose le pensa? No, non è stato uno sfogo, è una cosa, non è un'idea, non è una posizione politica, non è una cosa che penso. Non è una cosa che penso, cioè uno scrive, un responsabile politico di un partito a livello locale, ma comunque importante, a Rimini, eccetera, scrive: non è ora che impicchino i Marò, e lei dice che è una provocazione... Con il punto interrogativo, sì, no, perché certo. Era una... Non faccio del sofismo sulla punteggiatura, era una provocazione, sì. Per vedere, tra l'altro su una pagina privata, tra la ristretta cerchia di amici che mi seguono, sì. Per vedere che livello di indignazione si suscitava. Ma che è un sondaggio, scusa? È stata una cazzata, un'idiozia, una puttanata, come ho scritto, una stronzata colossale. Dopodiché sì. la questione era semplicemente di dire, giustamente su questa cosa qua, c'è un'indignazione su altre questioni che non sono provocazioni ma che sono questioni vere. Tipo che cosa? Affondare i barconi? No, affondare i barconi è una posizione che ha espresso anche il Presidente del Consiglio fino a qualche mese fa, le voglio ricordare. Ma comunque quelle sono tutte posizioni... La frase è più o secondo lei è più o meno violenta? Ma no, non è affatto violenta, perché significa affondare i barconi non con la gente dentro, significa affondare i barconi in partenza, diciamo. E mandare le ruste nei campi rom? Ma quella potrebbe essere una provocazione simile, anche quella senza le persone. Impiccare i marò significa ammazzare la gente, ammazzare i marò, è diversa la cosa. Era un pochino differente. Vivo in una città dove due quotidiani locali su tre, in riferimento ai venditori abusivi della comunità senegalese, li chiamano Bukumpra. Secondo me è una cosa violenta ed indegna. Cioè, chiamarli Bukumpra? Sì. Ah, cioè, chiamarli Bukumpra secondo lei è una cosa indegna e offensiva? Eh sì, assolutamente. No, però scusi, lei fa dei paragoni. È come se un quotidiano locale tedesco chiamasse la comunità italiana spaghetti Frasier o un quotidiano statunitense li chiamasse maccheroni. A quelli non gliene frega niente di essere chiamati Bukumpra, vogliono solo vendere la roba, che li chiamino Bukumpra o che li chiamino clandestini o che li chiamino extracomunitari, per loro è uguale. Comunque lei sta facendo, mi scusi se mi però permetto, così, un paragone improprio, perché lei ha scritto una frase, giustamente poi si è pentito di aver scritto questa frase, però la cosa che ma mi fa... Ma che pensa dei marò veramente? Devono subire un giusto processo. Io, più che ammettere l'errore e scusarmi, e no, rimettere il mio mandato, che cosa devo fare? No, ma questo va bene, d'accordo, è vero, però secondo me scusarsi per un qualcosa che si pensa, perché lei in fondo pensa non che lo penso, perché hanno ammazzato dei pescatori, hanno ammazzato dei pescatori, e dunque se l'India, diciamo, in teoria applicasse la pena di morte non ci sarebbe niente. Ma stiamo scherzando? Sono contrario. Ho capito, io quello capito. Stiamo scherzando? Cioè lei sta dicendo, lei comunque dice che le vere vittime in questa vicenda sono sicuramente i pescatori. No, chi sono le vere vittime lo accerterà un processo. Sicuramente ci sono dei pescatori morti che non torneranno a casa dei propri cari, ok? Però non la può paragonare ad altre cose, ad altre affermazioni politiche anche forti, non ci sono paragoni, cioè sono cose diverse. Secondo me invece ci sono affermazioni politiche molto più gravi, perché dette da esponenti di maggioranza, di opposizione, di passati governi, che hanno in sé una violenza radicale e spaventosa. Le sono arrivate anche minacce di morte? Dopo questa cosa? Mi sono arrivate varie minacce, sì. Anche Gasparri le ha dato del cerebro leso, sbagliando a scriverlo, peraltro. Succede. Cioè succede di ricevere insulti? Penso che utilizzare l'insulto cerebro leso per chi convive con quella problema, con quella disabilità, e utilizzarlo come un insulto, penso che sia vergognoso. Esattamente, sì, questo ha ragione, è verissimo. Però scusi, adesso non è che su questo Gasparri si è mostrato uguale alla sciocchezza che ha scritto. Ma non la possiamo buttare in caccia adesso, stiamo ribaltando l'insulto. Stiamo ribaltando l'ordine delle cose. D'accordo, poteva anche aver esagerato, però la cosa fondamentale è questa frase. Lui si è pentito, secondo me sbaglia a pentirsi, perché in fondo se uno distinto scrive quella cosa. Non la pensa, va bene. Sono pentito perché riconosco un errore e ne traggo le conseguenze. Vabbè. Il mandato. Grazie, buona serata, grazie, ciao, grazie. I'm a real wild one. Allora andiamo a Padova, Giuseppe, vai, forza. Giuseppe? Pronto? Dimmi Giuseppe, dimmi. Da Parma, dai, da Parma. Che ne so, volevo c'è scritto Parma. Dire una cosa che potrebbe insegnare anche a Parenzo, ed è riguardo la vicenda di oggi di Ilaria D'Amico, che è indagata per evasione fiscale, che la ferocia dei moralisti è seconda solo alla loro profonda stupidità. Frase di Filippo Turati. Sì, però Giuseppe, a parte che una persona è indagata per evasione fiscale per 400.000 euro, sì, non so che cosa, è indagata per evasione fiscale, non è stata condannata a nessun tipo di risarcimento. No, infatti, presunzione di innocenza assolutamente. Vabbè, ma adesso però voglio dire, sono cazzi di Ilaria D'Amico, dai. In una trasmissione dove c'eri tu, sì, dove c'eri tu, gli aveva detto, stia attento a criticare gli altri. Perché, signora D'Amico, se le mettono una telecamera nelle mutande, sì, un reato lo trovano anche a lei. Te lo ricordi? Sì, ma in quel caso era un, magari un reato di un altro tipo. No, può essere pure... No, era un'evasione fiscale per cui è stato condannato Berlusconi, che è stato condannato e la D'Amico è solo indagata. Quindi auguro personalmente la D'Amico di chiarire che lei... Guarda, non ha rubato nulla. Io, se non mi ricordo male, se non mi ricordo, ma non vorrei svelare delle conversazioni private, credo che le vicende che riguardano Ilaria D'Amico indagata o comunque sottoposta ad un'indagine fiscale per 400.000 euro, se non sbaglio, riguardino, ripeto, non voglio svelare, infatti non andrò nei dettagli delle conversazioni private che ho avuto nell'estate scorsa, riguardino una vicenda in cui lei è rimasta fregata da un suo ex commercialista. Questo io so. Credo che si riferisca a questo a un periodo in cui lei era assistita da un tizio che era pure un suo amico, da cui è rimasta fregata. Adesso veramente non posso andare nei dettagli, perché non mi interessa andare nei dettagli. In cui lei è stata fregata da questo commercialista e che probabilmente non ha fatto delle dichiarazioni per cui poi adesso agisce la Guardia di Finanza. Credo che sia questa la cosa. Comunque, Giuseppe, mica c'è stata una condanna. Non c'è stata nessuna condanna. No, nessuna condanna. Ho detto auguro alla signora D'Amico di uscire bene da questa. Però prima di non deve criticare e fare troppo la moralista, perché come gli disse la Santanchè, se qualcuno ti mette una telecamera fino alle mutande, qualcosa trova. Te lo trovo. Valerio Catania, vai Valerio. Sì, ciao, volevo dire a Parenzo a proposito del diario di Iris Berardi, lui è contrario alla stimolazione anale, massaggio prostatico, poi sostiene che bisogna multare chi fuma in macchina, eccetera. Ma lui ha detto addirittura togliere la patente. Quale sia il collegamento tra il massaggio prostatico e la multa per le sigarette, non lo so. Il collegamento è che Parenzo non si gode la vita, è ingessato, è vecchio dentro. Ognuno si gode la vita come io vuole. Io sono un grande fumatore, però non fumo in macchina, ma perché questi sono fatti miei, ma non mi interessa. Uno, ho già detto. Ah, tra l'altro c'è un sindaco, non so dove, a Francavilla al Mare, che non solo vuole multare i clienti, cosa che ha già fatto delle prostitute, ma vuole addirittura fotografarli e fare dei manifesti enormi in tutta la città, Francavilla al Mare, con le facce dei clienti che abbordano le prostitute. Ottimo. Una follia inaudita che spero che venga bocciata da qualsiasi tribunale italiano. Fermi tutti. Monellacci. La Zanzara. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Io ascolto la Zanzara tutte le sere e sono un masochista, però non si può sentire tutte le sere sentirsi un signore stipendiato dalla Confindustria che dice un sacco di bischierate. Andiamo con Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. Oh, iniziamo questa rubrica con un po' di ascoltatori. Ma c'è ancora Radio Padania, non devono chiudere, scusa. No, non deve mai chiudere Radio Padania, mai. Ma mai. Non c'era fatto. Resti per noi, resti per noi. Sopravviva per noi. Ma per carità. Guarda oltre i mondi. Per Parenzo dovrebbero rimanere solamente il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e qualche altro giornale dell'establishment. Il resto è tutto via. Beh, no, non è proprio così. Un mondo tutto così, tutto uguale, tutti uguali. Ma per carità, anzi. Allora, ascoltatori. Però anche i razzisti, che devo sì, fare? Sì, i razzisti, sì, prima portali in tribunale, va. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Ascoltatori, vai. Come fanno a non ribellarsi di fronte a questa teoria gender? Perché li ammazzo tutti se viene approvata, ma è stata approvata. Quindi Roma fuori. Li ammazzo tutti. I pensamenti. Padania. Uno che chiama dalla Val Canonica. Servi di Roma fuori. Tutti stiamo riempiendo sì. Tutti gli extracomunitari, la più di tutto, perché qui in Bacca Monica è una cosa impressionante, impressionante, qui a Boario poi parliamone, noi ciabattanti, tutte le mattine vado a Boario, tutti col telefonino, tutti sulle panchine che ti telefono, e noi potremmo, dobbiamo mantenere 2 anni con la gentaglia lì. Bacca Monica, Bacca Monica, manteniamo i ciabattanti con i telefonini. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreca. Un altro interviene e dice: non voglio perdere tutto per colpa di quello stronzo di Renzi e anche di Alfano. Ce ne sbattono tutti le palle. Io ho i brividi perché ho paura alla fine. Non voglio perdere tutto per colpa di uno stronzo di Renzi e uno stronzo di Alfano. Ciao, viva la Lega. Padania bella e libera. Guardavati. Poi interviene Pellegrin. Oh, è tornato Pellegrin, il quale sbrocca sulla questione del gender. A proposito del gender, si sposa Scialpi, eh? Si sposa Scialpi col suo manager. Non so se, vi ricordate di Scialpi, eh? Capelli lunghi, completamente trasformato nelle foto. Signor Scialpi. Pellegrin. Chi non è formato in una maniera compiuta e acconcia, probabilmente lei tende a cancellare la differenziazione tra sessi. Il gioco, no, lei non può dirmi così, perché qui no, qui si tratta, fermo lì, lei non mi dica, no, sta zitto, adesso stia zitto e mi ascolti, lei non può dire che non è vero, perché il gioco del rispetto è stato inserito nel programma scolastico a Trieste, in diverse scuole, scuole con bambini, scuole infantili, asili infantili. Quindi cosa dice che non è vero? Ma cosa dice che non è vero? Lei sta seminando bugie terribili. Si vergogni, si vergogni. Lei è una vergogna, lei è un pericolo per gli esseri umani, perché semina bugie schifose, lorde, che grondano crimine, oserei dire. Si vergogni, si vergogni. E si vergogni un'altra volta. Vada via, vada, se ne vada. Mi fa ribrezzo. Libertà. Servi di Roma fuori. Va bene, Federica da Rimini, vai, Federica. Ciao Cruciani. Ciao, io ciao. Non ti ascolto molto spesso, ti ascolta la mia mamma, però ero qui, cucinavo con lei. Ottimo. Quindi ho molto sentito bene qualcosa dei molto tuoi bene discorsi. Allora, innanzitutto, di là che non penso che tu sia una persona maleducata o frasi simili che comunque sono banalità, come dici tu, è vero che però usi un tono di voce che ha delle vibrazioni molto aggressive, anche quando esprime un suo pensiero personale, che è di tutto rispetto, ovviamente. Allora? Quindi, ecco, no, questo dico, quando ti dicono, ti accusano di essere aggressivo, beh, questo è vero. Cioè, tu hai chiamato per dirmi che sono aggressivo. Ci giochi, è giusto, la trasmissione si basa su questo e quindi va benissimo. Il tono comunque rimane con delle vibrazioni, per quello che dici e per quello che esprimi, sempre molto concitate, sempre molto impetuose. No, ma che stranezza, quindi... che cosa nuova che mi stai dicendo? Ecco, mi stai dicendo una cosa vero, nuova, è originale. Cosa, però non è questione di maleducazione, è una questione di vibrazioni. Di vibrazioni. Il pensiero che poi esce attraverso la voce e si esprime in maniera più o meno concitata, più o meno... Poi ti ho sentito dire delle frasi sui vegetariani, chi mangia carne, chi accusa, chi ti giudica. Allora? Tutte, anche queste banalità. È giusto quello che dici, ognuno fa quello che si sente, ognuno mangia quello che vuole. È ovvio che quando si va magari a interessarsi di certi determinati argomenti, si vengono a sapere delle cose, si scoprono delle cose, poi uno giustamente decide se mangiare, cosa mangiare, cosa non mangiare. Vabbè Federica, mi sto stancando però. Anch'io, il cumulo di banalità è la... veramente noioso quando La sequela di banalità che stai dicendo è incredibile. Ha bisogno di usare la coscienza quando si muove in giro per il mondo. La coscienza. La coscienza di decidere cosa mangiare e perché. Perché scegli di non mangiare più una cosa o di mangiarne un'altra. Che cosa interessante. Siccome io faccio da mangiare per gli altri, non impongo di certo il mio pensiero agli altri. Bene. Quindi io faccio i panini con l'affettato, con i salumi, con quello che mi chiedono. Hai finito? Hai finito la serie di banalità colossali? Guarda, tanto è la mia vita, probabilmente banale quanto la tua, no? Beh, però no, guarda, io la mia vita è molto divertente. In pace con tutti gli altri, in con pace. Tutto il resto. Francesco dalla provincia di Foggia, arrivederci. Le vibrazioni sono importanti. Sì, ma quello sempre, quello non c'è bisogno che me lo dici tu. Francesco dalla provincia di Foggia. Sì, buonasera. Mamma mia, ragazzi. Volevo intervenire sulla questione della Lega di Salvini. Sì. Che fondamentalmente lo ritengo un ottimo surfista, perché lui è capacissimo a cavalcare le onde, no? Del periodo. E premesso che può dire qualcosa di interessante a proposito dei Rom, eccetera, eccetera. Vabbè, però allora... io ho paura, perché vorrei ricordare, perché vedo che sta prendendo consensi anche allora... al centro-sud, e vorrei ricordare alle persone del centro-sud come me che fino a poco tempo fa questa persona, questo partito comunque, che si chiama Lega Nord, vorrei ricordare, avevano come obiettivo i meridionali. Adesso si sono spostati sui Rom, poi si sposteranno sugli ebrei, sui gay. Quindi loro hanno nella loro indole l'odio per qualcuno, e cavalcano questo per vincere le elezioni. Facciamo un esempio: che vincono le elezioni e il ministro delle infrastrutture, dei trasporti e infrastrutture è della Lega. Gli dicono: ci sono 10 milioni di euro che puoi spendere dove vuoi. Secondo voi dove li spende? Vabbè. È logico che li spende al nord. Quindi è incostituzionale. Questo non è un partito. La Lega è incostituzionale. È incostituzionale. La Lega è incostituzionale. Perché? Che non rappresenta la totalità delle persone. Vabbè, vecchia polemica. Arrivederci, Francesco, arrivederci. Alla faccia del cardinale Antonelli, che ricordo aveva detto che si può dare l'ostia, si può dare la comunione, sì, ai divorziati, ma solo se non fanno sesso, solo se... se sono un po', no? Casti, se restano casti. Dall'entrata in vigore del divorzio breve, il 20% delle richieste di scioglimento del matrimonio arriva da coppie over 65. Over 65. Cioè, c'è stato un aumento di divorzi di coppie over 65. Qualcuno dice che è la famosa famoso effetto pillola blu. Cioè il Viagra over 65 produce degli effetti per cui le persone si separano. Cioè le persone riscoprono il sesso, gli uomini riscoprono il sesso e si separano. Beh, ma anche perché si vive fino a 90 anni. Sempre alla faccia del cardinale Antonelli. Sempre alla faccia del cardinale Antonelli. Sai che dici proprio delle banalità? Ti giuro, ma veramente ti stai santecchentizzando. La Zanzara. Ma vogliamo risentire quello che ha detto la Boschi sul fatto che vuole un maschio, un figlio maschio, per insegnargli la parità tra uomo e donna? E io spero un giorno di avere anche un figlio, magari un figlio maschio, a cui proprio insegnare come deve rispettare le sue compagne e poi le donne che incontrerà nella sua vita, così come hanno fatto con me, i miei fratelli, i miei genitori, sapendo che probabilmente la prima parità vera di diritti si impara a casa, quando la mamma fa sparecchiare la tavola sia al figlio maschio che alla figlia femmina, perché è probabilmente da lì che parte il lungo percorso per la parità tra uomini e donne. Se questo è un ministro, comunque. Il commento di Travaglio, per esempio, a questa roba qua, a questa frase, è stato il seguente: sarà decisamente più difficile spiegare al pupo, cioè il futuro figlio maschio che si è augurato la Boschi, come fu che mamma divenne ministro. Ora, qui c'è un doppio senso evidente, no? Secondo me. Cioè, siccome, diciamolo apertamente, c'è qualcuno che pensa che la Boschi sia diventata ministro perché... se ha avuto un flirt con Renzi, io credo che Travaglio si riferisse a questo. Allora, però, no, secondo me sì. No, io l'ho letto in tutt'altro modo, come dire. Sì. Il miracolo. Il doppio senso mi pare evidente. No, questo non credo. Sì. Io ha un senso unico, cioè quello di dire una miracolata incapace è diventata ministro. No, secondo me no, è che c'è bisogno di scriverlo, dai. No, questo era il senso. Tu dici che è questo il senso? Ma no, io appena l'ho visto. Comunque, si può interpretare anche nel modo che ti dico io, Forse per i più maligni, eccetera, ma c'è chi ancora più. Questa qui è una battuta che vabbè. Ma in realtà la cosa è ancora più cattiva, se ci pensi. Beh, no, sarebbe più cattiva quell'altra. Che dire, una sarebbe più cattiva così. Quell'altra, dai. Beh, quell'altra è maliziosa, è sessista, chiamala come ti pare, ma insomma. Emanuele dalla provincia di Udine, dai. No. Emanuele, pronto? Provincia di Udine, vai. Pronto, mi sento, Cruciani, salve. Dimmi. Salve a lei e salve al buon Parenzo. Allora, volevo dire questa cosa qua, guardi, io ho 35 anni e a sentire queste puttanate sulla parità dei generi, maschi, femmine, queste cagate, qua non se ne può più, non se ne può veramente. A me lo dici, più. A me lo dici. Cruciani, porca mignota, ma adesso le faccio questo esempio qua, si ricorda i tempi quando la Biancofiore telefonò e disse che il 98% degli uomini sono stati battezzati dalle prostitute, e come no, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Pensi una cosa, pensi, non so, adesso ne dico una a caso che dice un sacco di puttanate uguali, come può essere Giovanardi, no? Le faccio un esempio, o Buonanno, o puttanate del genere. Se avessero detto che il 98% delle donne sono mignotte, cosa minchia sarebbe putiferio venuto fuori? Beh, allora, chi è discriminato in realtà? Siamo discriminati noi o sono discriminati loro? Perché io mi sono sentito molto offeso da quella dichiarazione. Quale dichiarazione? Non ho sentito nessuno, quella della signora Biancofiore. Vabbè, perché io non sono mai stato mignotto in vita mia. Ma io non sono mai stato mignotto in vita mia, capito? Anche se non giudico chi ci va, che ognuno fa i cazzi, i mazzi, queste cose qua. Allora, io guardi, propongo questa cosa qua, per la parificazione dei sessi, eccetera, no? Bisogna fare una legge per far pisciare seduti sia uomini che donne. E vaffanculo, non so cosa ne pensa lei. Io a sto punto ho una proposta di legge intelligente. Ma non ho capito, no? Cosa gli ha fatto incazzare, per esempio, dalla Boschi. Ma come si fa a dire queste puttanate qua? Guarda, ma il discorso dello sparecchiare, ma dove siamo? Ma sai che mestiere faccio io? Che mestiere fai? Io faccio da mangiare, faccio da bere alla gente. Cioè? Ha capito? Cioè? Quindi io servo, porto, do da mangiare, porto via i piatti e tratto le persone con rispetto, uomini e donne alla stessa maniera. Quando ero bambino piccolino, mia madre non mi portava via lei il piatto. Con gli anni ho imparato che il piatto dovevo portarmelo via da solo, sta nella coscienza delle persone, nell'educazione. Non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, perché sennò tutti i politici sono farabutti, perché sennò tutti gli zingari sono farabutti, tutti gli ebrei sono dei criminali economici, eccetera, eccetera, andiamo avanti così. Ma che cazzo di discorsi sono, Cruciani? Emanuele, grazie. No, lo so, per dire queste stronzate, sì. Paolo da Firenze, vai. Paolo. Allora, perché si chiamano Rom e Sint? Sono zingari. Sì, zingari, vabbè, uguale, zingari si può utilizzare tranquillamente. Forse Parenzo ha ribrezzo anche per la parola zingari, per carità. Cioè, perché... No, chiamo Rom, perché uno chiamano Rom, poi chiamateli pure zingari. Ma zingari nel senso dispregiativo, zingari, allora? Allora andrebbero bruciati vivi con un bel po' di alcol, ecco. Scusa, non ho capito bene, Paolo, vuoi ripetere in maniera più chiara? Questo a me personalmente fa ribrezzo, questo sì. Sì. Allora Paolo, dunque, puoi ripetere bene perché non ho capito bene, mi sembra di non aver capito bene. Cosa bisogna fare con quelli che tu chiami zingari, cioè Rom? Spargere l'alcol, sì, nei campi, sì, e bruciarli con loro dentro. Aspetta, però abbassa la radio perché, ecco, voglio sentire. A me fa ribrezzo. Sì, vabbè, abbiamo capito che ti fa ribrezzo. Chiudi. Scusa se lo dico. No, no, no, lo puoi dire, ma mi sembra l'hai già detto, poi approfondiremo naturalmente. Chiudi un po' la radio. C'è da approfondire moltissimo. La radio. Prendere il numero di telefono e di c'è la radio alle tue spalle o non so dov'è, Paolo, la vuoi abbassare? L'ho già spenta. L'hai spenta. Benissimo. Allora spiegami un po' qual è la tua idea dei Rom, cioè cosa faresti? Se vuole il numero di telefono Palenzo glielo do, così brucio anche lui. Sì, no, vabbè, quello adesso. Siamo tranquillamente il numero di telefono, spero che la procura sia in ascolto. Ma quale procura? Ma quale procura? Dai, la procura, adesso tutta la procura. La polizia, no, scusami, ho detto la parola polizia, scusa. Che qualcuno sia in ascolto. Vabbè, qualcuno denunciare. Vabbè, per adesso non ha detto nulla, ha detto no, non ha detto nulla. No, ha detto qualcosa, aspetta. Ah, non ha detto nulla. Lascialo proseguire, andiamo. Lascialo proseguire. Magari non ha detto nulla, magari è una metafora, magari è una metafora. No, che metafora? No, no, andrebbero bruciati anche i bambini degli zingari. Ah, scusa, allora andrebbero. Non era una metafora, dunque andrebbero bruciati sul serio e andrebbero bruciati anche i bambini. Sì. E perché? Perché poi dopo non crescono più nessuno, non c'è più nessuno, basta. Ma perché, Paolo? Adesso parliamo seriamente, non puoi pensare. No, io sono serissimo, perché il signor Parenzo, visto che dice che poi li difende quelli che rubano, no, ma gli altri li difende tutti. Allora, qui a Firenze, 10 giorni fa, 2 Rom, nonché zingari, appunto, hanno preso una signora su una carrozzina paraplegica e gli hanno scippato la borsa e la collanina. Cosa gli hanno fatto a questi che sono già fuori? Beh, ho capito, li vanno bruciati, vanno bruciati. Paolo. Io chiedo scusa se con lei non parlo, perché la reputo il gradino più basso dell'umanità, se ciò esiste. Invece quei due che hanno scippato la signora handicappata, come li ritieni? No, io ritengo lei, per quello che ha detto, il gradino più basso dell'umanità. E invece quei due che hanno scippato la signora handicappata, come li ritieni? Le ripeto, non parlo con lei perché la ritengo il gradino più basso, allora, dell'umanità. Ti invito però, David, Paolo sta dicendo delle cose inaudite di cui non si rende nemmeno conto. Purtroppo si rende conto, questo è il dramma. No, io credo che non si renda conto. Io credo che purtroppo se ne renda conto. No, io credo. L'ha ripetuto due volte. Credo che non si renda conto. Però, ti invito ad esplorare anche questo aspetto della natura dell'uomo. Ma non solo esplorare, cioè semplicemente a denunciarlo, credo. Ma credo. Sono frasi per sono adesso. Sono solo frasi. Quelle frasi non certificate. Provocano dolore, non fanno male, dici. Ma no, quelle frasi appartengono, no, secondo me. Dire anche da te, quindi le frasi non fanno male. Aspetta, poi lo richiamiamo in causa. C'è il traffico. No, ma non fanno male. Sono un proclama di odio, diciamo, no? Un proclama di odio, a meno, sinceramente, se interviene la procura, non interviene la procura, se interviene la polizia, a me non me ne fotte nulla. Io parlo con questo Paolo da Firenze che mi sta chiamando. Poi, se vuole intervenire la polizia, intervenga la polizia, la procura. Cerco di capire il perché di questa follia. Punto e basta. Il resto non me ne fotte nulla. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Allora, Paolo da Firenze e le sue teorie un po' violente, diciamo, per usare un eufemismo, sui Rom. Paolo, allora, Zingari, Rom, quello che è. Procediamo per ordine. Tu dici bruciare vivi bambini e genitori, immagino, cioè sterminare tutti i Rom. Tutti, ora, per un furto, proprio il termine giusto, sterminarli. No, ma non l'ho usato io, era per capire quello che pensavi tu, non l'ho usato io. No, la cosa che voglio capire è... No, lo uso io, va bene. No, ma usalo tu, no, è meglio che lo usi tu, io non lo uso, ma non ho capito, ma tutto questo per un furto che tu qui hai assistito, oppure di cui hai letto a Firenze, non ho capito, oppure per altro. No, uno, come uno? Uno. Uno, cioè, qui tutti i giorni rubano. Tutti i giorni rubano. Benissimo, tu sai benissimo che per il furto ci sono il carcere. Cosa c'è? Non c'è niente per il furto. E dunque? Non c'è niente per il furto. Cosa facciamo? Facciamo come dice Parenzo? Mettiamo le leggi. Beh, le leggi di cosa? Solito. Le leggi governano un paese, diciamo, un paese civile. Perché Parenzo non va dentro un campo Rom senza telecamera, senza taccuino, senza niente? Ma perché dovrebbe andare senza niente dentro un campo Rom? Beh, sono stato qualche volta. No, ma perché bisognerebbe andare senza niente dentro un campo Rom? No, così per perché non esce più. Mi aggrediscono per quello. Ma sì, non lo so, sì, probabilmente sì, ma... A parte che voglio ricordare al signore che qualcuno è stato aggredito anche con la telecamera, giusto per ricordarglielo, diciamo, ma... non posso neanche dialogare con questo, parlare con questo qua. Vabbè, ma lascia, ma sta parlando, ma estraneti dalla tua cosa di dover per forza andare dalla procura. Attento, ragazzo, non si tratta né di perbenismo. No, né ma di non ho detto perbenismo, non ho detto si perbenismo. Semplicemente che, come ti dicevo, la mia soglia che è piuttosto lasca. Ma di lasca, fronte a vabbè. Uno che per due lasca volte ti dice è piuttosto lasca la mia soglia, non anche la terza volta. Ma la terza non c'è bisogno, Paolo, non c'è bisogno. Quello che sento in tanti, che non hanno il coraggio di dirlo. Non è che sono obbligato a parlare. No, lui dice che... sei obbligato a parlare. Sei qui, c'è Paolo ma da Firenze. Io l'avrei già chiuso due volte. Ma non c'è nessuna chiusa. Ma tu non vuoi, ma qui non siamo in procura. È una trasmissione radiofonica, cazzo. Paolo. Ma non è che siccome. Ho capito, è una trasmissione radiofonica. Ha chiamato Paolo da Firenze. Voglio ascoltare Paolo da Firenze. Bene. Anche se dice degli orrori, chiaro? Lo ha detto, e fallo. E allora basta. Ma non ti sto rompendo i coglioni. Nessuno. Guarda che sei pagato te per ascoltare. No, ma deve sempre fare il paladino, per forza. Per fortuna, perché voglio, vabbè, Paolo, dai. Obbligato ad ascoltare. No, non sei obbligato a fare nulla, Paolo, dimmi allora, mi fa ridere, che cosa faresti, dai? Ti fa ridere, a noi si fa piangere, è quello che pensano in tanti in Italia, lo pensano in tanti. Cioè che devono essere bruciati vivi Rom? Sì. Beh, sì, no, ma questo ti assicuro di no, Paolo, ti assicuro che non ma è così. Ti assicuro di sì. Cioè, ma tu ti che cosa? Di sì. Cioè, voglio dire, allora che cosa faresti adesso concretamente, a parte bruciarli tutti? Veramente tu li vuoi bruciare vivi? Sì, ma un boccione, sai quelle bocce grandi di 5 litri di alcol? E poi? Ci sei mai passato vicino a un campo di zingari? Ma sì, sono passato correndo, ho fatto... Puzzano, ho capito, puzzano anche gli italiani ogni tanto. Comunque puzzano i Rom, benissimo. Poi puzzano, rubano. Anche qui mi sembra che c'è poco per bruciarli, però pochi elementi per bruciarli. C'è pochi elementi già per bruciarli. In generale, anche per di solito diciamo non si brucia una persona, diciamo, si usava in un'altra epoca. Il motivo di bruciarli è ben preciso, è perché così non c'è da seppellire e da occupare altri posti della terra per loro. Ma scusami, perché diventano ceneri. Paolo, perché non lo fai tu allora, dato che sei così determinato? Perché non hai il coraggio, dovresti avere il coraggio di farlo tu direttamente. Perché lo sai benissimo che dopo due minuti ne arrestano. Beh, ma è chiaro, allora, io mi auguro che anche le parole abbiano la stessa forza. Anche le tue parole abbiano la stessa forza. Io mi auguro che anche le parole, questa è la differenza che c'è sostanzialmente tra me e anche Cruciani, oltre a tante altre, ma quella fondamentale è che io penso, siccome le parole hanno un peso, sì, le azioni hanno un peso, ma anche le parole, siccome questo è uno stato di diritto, si chiama, sì, io penso che anche alcune parole particolarmente violente debbano essere punite. Questa è la c'è differenza. Anche la libertà di pensiero. No, non esiste in questo caso libertà di pensiero. Ah, non esiste, solo nel tuo caso esiste. Però scusami Paolo, c'è un elemento fondamentale in questa vicenda, che è questo. Se tu bruci tutti i rom, mettiamo tu vuoi bruciare gli autori di alcuni reati, dice vabbè è pazzo, vuole bruciarli, poi paghi le conseguenze, no? Però a te non importa, che ne so, appunto, che vengano bruciati anche degli innocenti, bambini. No, perché poi in futuro saranno delinquenti. Ah, tu dici meglio anticipare, meglio prevenire da questo punto di vista. Certo, come si dovrebbe prevenire per buttare giù le barche vuote o anche piene, uguale piene in uguale. Tunisia o in Marocco, in Libia, è uguale per quanto fermare e bloccare questa emorragia che non ha mai un fine. Ma che quando provano a dire che sono nati in Italia, ti rendi conto? Sono nati in Italia. Dico siamo italiani, ma come siamo italiani? Beh, italiani cosa? Hai fatto sentire uno che addirittura lo zingaro c'hanno la radio. Ma come c'hanno la radio su internet? C'hanno la radio. Ma in che senso? Ah, una radio, sì, una radio. Parlano, sì. Questi parlano. Vabbè, parlano, sì, adesso non è proibito parlare anche ai rom, cioè possono parlare, perché non possono parlare, secondo te? No, devono morire. Ciao Paolo, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Parenzo, che devo fare io? Se questi qua dicono che devono morire, io diranno so, che devono morire, io penso, come ho già detto banalmente, Paolo si assume la sua responsabilità in modo anche borghese. Ma che borghese? Non è borghese. Dite quello che volete, penso che le parole, sì, vabbè, però il discorso va sentito fino in fondo. Fino in fondo vanno. Sì, ma perché quello è un altro discorso. Io posso essere d'accordo se ci sono dei reati, però se sono previsti dei reati da questo punto di vista. Però le persone vanno ascoltate fino in fondo. Cioè, se le parole di questo signore che abbiamo ascoltato, ma per esempio, nel nostro sistema, come in quello tedesco, francese, che è tanto lontano. Questi sono queste robe. Va bene, ecco, vedremo. Non sei tu già a decidere una, no, la sentenza falla fare agli altri. Falla fare agli altri. Allora, io dico semplicemente una cosa. Questo dico che è previsto dal va codice. Bene, poi è previsto dal codice l'ipotesi di un reato, poi il reato va approvato nei tribunali. Benissimo, andrà in tribunale. Detto questo, va sentita fino in fondo anche la follia. No, e questo l'ha detto una volta, poi l'ha ripetuto due. Ma no, poi va sentita, ho capito, ma siccome diceva delle frasi piccole, fino in fondo volevo capire se stava scherzando, se non stava scherzando, se lo pensava davvero. E dunque fammi lavorare. No, dai, Angelo da Bari. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sì, intanto ho saputo che in Inghilterra, mi sembra in Inghilterra o negli Stati Uniti, una gentile signorina è andata a sbattere contro un furgone perché In Inghilterra perché si è masturbata con un vibratore. Beh, amici miei, siamo non al top, all'ultra top. E sai che la forma di questo vibratore, sempre se queste notizie corrispondono a verità, aveva un coniglietto rosa. Coniglietto rosa. Non ti ha emozionato questa notizia? Ho pensato subito alla sigaretta, per la verità. Ah, vedi, hai fatto bene. Sì, vietiamo i vibratori in macchina. Vietiamo. E allora vietiamo i vibratori in macchina. Vietiamo i vibratori in macchina. Mi ha come dire rafforzato della mia tesi. Ma al contrario, tutto può essere distrazione. Se tu ti masturbi con un vibratore, è chiaro che puoi essere distratto. Al contrario, che uno in macchina, rafforzato della mia tesi, che uno in macchina, nella mia convinzione, che uno in macchina può tenere quel che vuole, anzi, ben venga anche questo oggetto. In macchina. Ma no, ho capito. Peccato che il codice della strada vuole, non lo esplicita. No, non lo esplicita, appunto, ecco, non lo esplicita. Non lo esplicita. Il buon senso, diciamo. No, dice, ti sbagli. Dice la... che quella roba lì la puoi usare no, da fermo. No, infatti la puoi usare il da... movimento è pericoloso, non per te. Ma tutto è pericoloso. Se tu prendi una bottiglia d'acqua e ti distrai, sei punito lo stesso dal codice. E infatti ti dicono e allora non serve introdurre la roba sulla sigaretta. Ma infatti ti dicono che devi bere da fermo, sennò è un aggravante. Non è vero che puoi bere tranquillamente in macchina, non è sanzionato. Puoi bere tranquillamente, vuoi prendere una bottiglia e bere in macchina tranquillamente, non è sanzionato. Fermi tutti. Se poi fai un incidente, quello è considerata per te un aggravante. E infatti tutto è considerato, può essere considerato, diciamo, disturbante per la guida. Fermi. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Ti devo mandare a fanculo subito, prima che incomincio a parlare, perché allora, ti mando a fanculo, ciao Beppe, ok? Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrat. Allora, Cosimo da Bologna, vai Cosimo. Pronto? Dimmi. Pronto? Sì, Cruciani, buonasera. Niente, volevo intervenire sulla questione degli animalisti. Sì. Che prima ho sentito che si lamentavano con la trasmissione perché voi accereste l'odio contro gli animali. Beh, io sono un studente di veterinaria, amo gli animali, ma secondo me la cosa peggiore contro gli animali fanno gli animalisti stessi. Perché sinceramente non si può sentire gente che surta per la morte di un cacciatore o che chiama assassini che mangia carne, sembrano, beh, non lo so, quelli dell'ISIS. Bravo, così. Proprio così, spesso sembrano come quelli dell'ISIS, questo comportamento aizzano ancora di più l'odio contro gli animali, perché gli animalisti sono fondamentalmente antipatici a tutti. Una persona è simpatica o antipatica a prescindere dal fatto che è animalista, vegetariana, eccetera eccetera, solo che questi signori qui, molti di questi signori fanno diventare l'animalismo, il vegetarianesimo, il veganesimo una religione, e a me mi stanno sulle palle queste cose qui, sulle palle. Lo dico e chi se ne frega, cioè, poi sì, mi attaccano adesso anche la Lega per il cane, non so per che cosa, spero che non pigliano finanziamenti pubblici questi qua, anzi sicuramente li prenderanno, però spero, visto mai qualche finanziamento arriva sempre. No, può darsi, ma purtroppo ci sono i pazzi che lasciano i soldi a questa associazione sugli animali. Vabbè, quello però, sai, non si può evitare. Io le eviterei. Io sinceramente alle associazioni no, però c'è gente che lascia gli animali, no? E poi sono le associazioni che incassano, magari. Non lo so, bisognerebbe indagare. Sempre su questi amici dei cani, qua non mi ricordo come si chiama la situazione. Beh, vorrei vedere come la pensano loro sul fatto che ormai ogni giorno, per seguire le mode, i gusti estetici, si creano delle razze di cani che fondamentalmente sono degli aborti genetici che sono pieni di problemi fisici. Però se parli con l'animalista, quanto sono carini, però sono animali che soffrono, però quello non è crudeltà. Va bene, ciao Cosimo, andiamo a Pisa. Francesco, vai. Buonasera. Niente, volevo rispondere a quanto detto poco fa dalla ragazza che l'ha attaccata sostenendo l'argomentazione delle vibrazioni delle voci, il discorso del veganismo. Veramente non era un'argomentazione, non si è capito niente, comunque. Ma io penso che ormai questo paese sia totalmente allo sbando, perché c'è un garantismo totale a tutti che appunto permette di dire baggianate a qualsiasi livello. Io suppongo che essere vegetariani a me non dà noia, sono contento che siano vegetariani, c'è più ciccia per me e mangio più carne io, però a me dà noia quando mi viene imposto di non mangiare la carne soltanto perché una loro religione. A nessuno te lo vuole imporre, perché non arriveranno mai a imporre nulla a nessuno, per fortuna, cioè la realtà è che pensano che tu, io, Parenzo, siamo tutti degli assassini che affamiamo il pianeta, e questa è la cosa assurda, capito? È come se io impedissi a qualcuno a mangiare i biscotti perché io sono a dieta, cioè è un po' il controsenso. Ecco. Sì, e poi dai, su. Volevo liquidare velocemente quella persona che parlava della Lega, diceva degli ebrei, ma io penso che ci siano, diciamo, dati evidenti che fanno pendere la bilancia dei diritti tutta a favore di queste persone che sfruttano il sistema garantista che c'è in Italia, Rom, Sinti, tutte le, tutte, e ci sono soltanto doveri per chi comunque in Italia ci abita, lavora, paga le tasse e tutte queste cose qua. Va bene Francesco, grazie, ciao. Allora ragazzi, giustamente qualcuno scrive: la notizia che prima avete dato di quel segretario di Rifondazione Comunista che è intervenuto pure alla Zanzara, che ha detto che bisogna impiccare i Marò, poi si è pentito, eccetera eccetera, la vera notizia è che esiste un segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Non è tanto quello che dice sui Marò, impiccagione eccetera eccetera, che esiste la segreteria provinciale di Rimini di Rifondazione Comunista, questo è il punto. A proposito di un po' più giù di Rimini, verso Francavilla a Mare, c'è un sindaco, ha detto che vuole fare degli enormi manifesti con il volto, il viso dei clienti delle prostitute che abbordano le prostitute. Tutto questo per togliere la prostituzione dalla sua città. Questo è buono. Ma questo buono di che? Ma tu sei veramente diventato, ma è come la Stasi questa roba qua, è una questo roba è da buono. Germania Est. Provocazione giusta. Com'è per che si chiama questo tizio? Bravo questo. Chiamiamolo un po', com'è che si chiama? Non mi ricordo più. Sì, eccolo qua. Si chiama Luciani, sì, Antonio Luciani. Proviamo un po' a chiamare, vediamo che cazzo fa alle 20:41. Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Mare, e vediamo come se la caverà, perché secondo me se prende un sacco di querele, di denunce da parte di, giustamente, di clienti delle prostitute, i quali hanno dei bisogni sessuali da sfogare. Pronto? Sindaco, come sta? Yeah. Sono Cruciani, come va? Tutto bene. Beh, ma che le viene in mente? Le fotografie ai clienti delle prostitute? Perché? Ma è un disastro. È un disastro? Ma come fa? Ma la gente ha diritto ad andare a prostitute, sindaco? Io penso di no. Come no? Io penso di no. Parenzo, questo la pensa come te il sindaco? Beh, questo ha fatto un'iniziativa lodevole, secondo me. Ma no, ma dai, su. Ma veramente lei vuole pubblicare Bravo. La fotografia delle macchine, magari anche della faccia del cliente? A me non piace l'ipocrisia. Quindi ritengo che il modo per sconfiggere questa ipocrisia, visto che il legislatore non fa la sua parte, stia in mano a noi sindaci, che dobbiamo sopperire a queste carenze con iniziative un po' così, diciamo, anche spinte, chiamiamo. Beh, spinte, ma lei davvero vuole fare questi enormi manifesti? Ci spieghi un poco esattamente, perché io ho detto concorso, fotografa il cliente e noi stampiamo il 6x3. Cioè lei si aspetta che la gente fotografi il cliente, le mandi le foto in forma anonima. E poi io mi prendo la responsabilità di stampare questi 6x3 e di pubblicarli per la città. Noi abbiamo adottato prima un'ordinanza per punire i clienti con circa 500 euro e abbiamo già elevato una quindicina di sanzioni in tal senso. E la gente ha pagato subito? La gente paga subito, non solo. Ah, perché non vuole che la multa arrivi lì a domicilio, no? Esatto, non solo. Abbiamo visto in queste occasioni che questa cosa non scoraggia i clienti. Però i clienti hanno paura molto di essere visti. Pagano subito, sono le prime multe che vengono pagate queste. E allora di lì mi si accesa una lampadina e dico: vabbè, voi volete la vostra riservatezza, io vi faccio un bel 6x3, così vediamo. Cioè, non lo so, dove le mette queste foto, questi manifesti? In giro per la città? Sì, sì, nelle affissioni, come se fossero affissioni pubblicitarie, no? La fotografia sarà, diciamo, del cliente quando ha fatto salire la prostituta sopra la sua autovettura, così non ci sarà. Ma lei vuole distruggere i matrimoni, la prostituzione aumenta i matrimoni, aumenta la possibilità che i matrimoni resistano, ed è un dato statistico, caro sindaco. Ma vuole mettere quanti matrimoni sani saranno più rafforzati. Ma che sani, la gente tradirà lo stesso, altro che, però scusi, adesso torniamo al di là degli scherzi, torniamo alla cosa concreta. A me pare assurdo. Non facciamo, io voglio dirti una cosa, io ci voglio giocare su questo argomento, ma non facciamo finta di non sapere che queste ragazze vengono letteralmente comprate e vendute come si compra o si vende un vitello al mercato. Ci pensi la polizia a scoprire il racket delle prostitute? I clienti non c'entrano niente. È vero che alimentano un po', però la prostituzione è insopprimibile, la voglia di sesso è insopprimibile. Sindaco. Su questo c'è molta ipocrisia. Vogliamo riaprire le case chiuse? Io sono disposto, io non sono un bacchettone, sono disposto a discuterne. Perché la mia. Guardi che le mando razzi, le spedisco razzi lì, Purtroppo ce l'abbiamo vicino. Lui vuole riaprire le case chiuse, Ma io sono disposto a discuterne di questo. E allora, ma lei guardi che facendo così, tra l'altro, sposta il problema in un'altra città dove un altro sindaco non fa quello che fa lei. Cioè, non è che. Ma vogliamo. Bisogna partire da qualche posto, poi magari se lo pongono il problema i sindaci vicino a me, magari adottano lo stesso sistema. Vabbè, sindaco, io non sono d'accordo. Secondo me, poi tra l'altro, lei non ci riuscirà mai a fare questi manifesti. Beh, quando farò il primo e lo vedrà. La richiamo. Anzi, quando farò il primo e lo vedrai. Allora dirai, cavolo, questo l'ha fatto davvero, perché io lo farò. Va bene, grazie, ciao. Bravo, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, ma la cosa che mi stupisce è che Parenzo è d'accordo con questa roba qua. Anzi, sì, non mi stupisce per detto, niente ormai. Ha detto una cosa. No, perché non si capisce, dipende dalle cose, non è che uno è ideologico e deve. No, dire, ma è una follia assoluta. Cioè, lui ha detto un'altra cosa. Lui quando gli hai chiesto giustamente sulle case chiuse, io sono a favore delle case chiuse. Perché le case chiuse presuppongono che c'è un controllo dello Stato. Sì, però ragazzi, ma questo qua vuole. Dello sfruttamento, ma questo qua vuole fare la foto questo dei. È il punto. Ma c'è una coerenza invece. Ma la foto, ma lascia perdere che sia coerente. La coerenza può essere anche Hitler a suo modo era coerente, che vuol ma dire? Ma cosa c'entra? No, ma la coerenza non è che sia per forza una virtù, il problema ma è che no, è l'oggetto. Ma in questo caso, su questo ma è sbagliato, argomento, è tutto dice, sbagliato, è ma sbagliato. Ma in questo caso la coerenza cosa consiste? Consiste nel fatto che lui dice c'è un problema, che è lo sfruttamento della prostituzione. E allora? E la criminalità. E che fai? Ma quello io ci pensa la polizia? Ci pensa la polizia a sgominare? Nel mio comune? Colpisco chi è complice di quello sfruttamento. Se poi mi si dice sei a favore delle case chiuse, ti dico di sì, come dice di sì lui, sì, ovviamente. Ma è sbagliato, ma non c'entra niente. Fare la foto. No, ma non c'è quello, è chiaramente. No, ma che cos'è? Il manifesto, hai detto che sei d'accordo? Hai detto che sì, sei d'accordo. No, ma terrorizzare chi? Ma perché bisogna terrorizzare per chi va a prostitute? Perché devi pensare anche. Ma perché il cliente va perché demonizzato? Va terrorizzato il cliente. Il cliente va terrorizzato perché è complice di uno sfruttamento. Giovanni da Varese, ma non dire stronzate. Niente, Giovanni non da Varese. No, non è complice dello sfruttamento per niente, guarda, Giovanni allora, da Varese. Giovanni da Varese, non è complice. Me è complice dello sfruttamento. Giovanni da Varese, sì. Ma perché non lo dici anche perché non è complice del traffico internazionale della droga e si fuma una canna? Scusa, non ho capito. È ma anche complice solo per la legalizzazione delle droghe. Capito, ma leggere. Però non dici a quelli che sono però c'è un dettaglio. No, non c'è nessun dettaglio. Sfugge. Che cosa? Non che, dettaglio. Che vengono sfruttate le donne c'è in quel caso? C'è un dettaglio che chi compra la droga fa male a se stesso se uno ritiene che sia farsi male. Lascia perdere questo dettaglio, è uguale, il principio è uguale. No, sai anche tu che non è uguale. Giovanni da Varese. Perché un conto è sfruttare una donna che sai che viene picchiata, viene portata sulla strada. Ma chi l'ha detto? Ma non è mica detto che sia così come dici tu. Ma non è vero, non è vero. Ma non è detto. Fratello, mi vendi 20 grammi. E allora per quei 20 grammi probabilmente sono state ammazzate delle persone. La stessa cosa, dai, su. È chiaro che la catena diventa molto più complicata. Allora, dai, forse è uguale, Giovanni. Come la devi colpire, è giusto colpirla. Giovanni da Varese, dai Giovanni. Ok, tocca a me. Vai, dimmi. No, visto che è mezz'ora che me lo dici, ma continuate a parlare voi. Vai, forza. No, era solo per un po' di rispetto che tu chiaramente vuoi nei tuoi confronti, lo vorremmo anche noi. Libertà di parola nella tua trasmissione, ma quando uno spara cazzate come quello di prima, sì, la si prende una volta e poi si mette giù a rivederci. Quello sono affari miei, come conduco sono affari miei. No, miei. Protesta, protesta. Ho cambiato canale e infatti sei qui. Protesta. No, ho telefonato, ho preso la linea, ma intanto ascoltavo un'altra trasmissione. Ottimo, protesta, perché, protesta con qualcuno. Vai dal garante dei. Sei un gran pirla quando fai così. Allora, qual è il punto. Bravo Giovanni. No, perché non ho capito qual è il punto. Non ho capito qual è il punto, non ho capito. Il punto è che libertà di parola tutti quanti, ma quando uno spara certe cazzate, lo si ascolta una volta, non tre, quattro volte. Ti ripeto, come conduco sono affari miei. Se non ti va di ascoltare fino in fondo la bestialità di quello, cambi come hai fatto. Adesso lo puoi dire perché solo da noi lo puoi dire tranquillamente. Puoi dire di protestare e di che ti sta sulle palle questa cosa qui. Ma io continuerò a far sentire la bestialità delle persone finché queste persone chiamano. E adesso in conclusione Antonio Razzi ha remixato la sua canzone Fammi cantà. Questo il risultato. Ciao. Ira.